Vento alla rovescia. Bentornati da Gigi Donnelli a questo nuovo appuntamento con Conto alla rovescia. Domani 29 novembre e il 9 dicembre prossimo lanci previsti rispettivamente a Baikonur e Kourou per Soyuz TM e Ariane 5. Intanto prosegue il viaggio verso la Guyana francese dei due vettori russi ceduti all'Agenzia Spaziale Europea per essere lanciati proprio dalla base sudamericana. Per completare il pacifico arsenale di lancio dell'Europa manca solamente Vega, il lanciatore concepito in Italia e adottato dall'intero continente. Oggi Conto alla rovescia parte dunque da Colleferro, provincia di Latina, con l'ingegner Pier Giuliano Lasagni, direttore della divisione spazio di Avio Colleferro, dove si sta appunto costruendo il nuovo vettore. Vuol dire Vega in quanto, come dico, è nato prima la nostra partecipazione in Ariane 5, siamo passati dall'attività motoristica e componentistica all'attività sistemistica con la capacità e le competenze per realizzare un intero vettore. Quante persone lavorano intorno a questo progetto e a che punto siamo? Qui a Colleferro ormai ruotiamo, siamo 400, dalle 400 alle 600 persone, ruotiamo tutti intorno a Vega perché Vega rappresenta il nostro futuro. Però dobbiamo ricordare che Vega è un lanciatore europeo, a guida italiana ma europeo. C'è buona parte dell'industria spaziale europea che contribuisce alla realizzazione del vettore Vega. Si parla di industrie spagnole, si parla di industrie francesi, Belgio, Olanda. Direi che l'Europa spaziale che ha lavorato e si è formata con Ariane 5 sta cavalcando il futuro di Vega, e noi ci avviciniamo alla data del primo lancio, che sarà a novembre del prossimo anno, e aspettiamo un futuro veramente splendente per il nostro vettore. 1 milione di esemplari di Cernodabitis elegans a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. I vermi, che da anni sono di casa nei laboratori di genetica di tutto il mondo, aiuteranno a capire perché i muscoli dell'uomo si degradano in condizioni di assenza di gravità. Nasce a Matera la cittadella dello spazio. È stato infatti firmato l'accordo tra l'Agenzia Spaziale Italiana e la Regione Basilicata. 24 milioni stanziati per l'ampliamento della base di geodesia spaziale già esistente. Sorgerà insomma un centro di eccellenza polifunzionale per le osservazioni satellitari, per la formazione e per la ricerca scientifica. Imparare a utilizzare le risorse disponibili per prolungare le missioni alla Luna e a Marte è l'obiettivo del progetto COSMIC, sviluppato in Italia nell'Università di Cagliari e finanziato con 500.000 di euro dall'Agenzia Spaziale Italiana. Ce lo spiega l'ingegner Andrea Lorenzoni. Il progetto COSMIC ha l'obiettivo di rendere autonomo il vivere sulla superficie lunare o marziana. Cioè non è possibile, se si pensa in termini di esplorazione umana e di colonizzazione, pensare di portarsi tutto da terra. Quello che si sta cercando di progettare ai fini dell'autonomia su una superficie di pianeta, in pratica è orientato o coincide con alcune problematiche che abbiamo sulla superficie terrestre. Ad esempio, il risparmio idrico e l'utilizzazione sulla Terra in modo efficiente dell'acqua. Le tecnologie che si devono sviluppare per utilizzare l'acqua sulla superficie della Luna o di Marte coincidono proprio con gli stessi obiettivi, quelli del risparmio idrico. La stessa cosa, per esempio, per estrarre ossigeno dall'anidride carbonica. Coincide. Le tecnologie che si devono sviluppare vanno proprio a sovrapporsi e a coincidere con tutto quello che si sta provando a fare sulla Terra per la riduzione dell'inquinamento. Ancora 5 missioni dello shuttle per concludere un'era. Dopo il rientro di Atlantis si chiudono le operazioni 2009. A febbraio lancio di STS-130 con consegna in orbita del nodo 3 di costruzione italiana e della cupola che permetterà agli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale una visione senza precedenti dell'intera struttura. E con questo abbiamo concluso. Come sempre vi ricordo radio24.it per risentire le trasmissioni della nostra emittente. Un ringraziamento a Fabio Cantadori, a Chiara Albicocco. L'appuntamento è come sempre per sabato prossimo. 3, 2, 1. We have ignition.